America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Giacarta. Mario Platero, al seguito del presidente Obama, tappa complessa questa tappa indonesiana. Proprio qui a Giacarta, dove Obama ha passato molti anni della sua infanzia, c'è la parte politica, c'è l'importante messaggio per l'apertura che oggi il presidente ha dato all'Islam intero, dalla più grande democrazia musulmana del mondo. È andato a visitare la moschea Istiqlal, la terza moschea più grande del mondo, ha pronunciato un importante discorso appunto dall'università indonesiana. Progresso, cambiamenti, democrazia possono convivere con le tradizioni e le religioni, attenzione, al plurale. E questo è il messaggio centrale, direi, che Obama ha dato oggi da qui, non solo agli indonesiani che già lo praticano, ma soprattutto a quelle fazioni più estremiste del mondo islamico. C'è anche un attacco a Israele, che la smettano con gli insediamenti, ha detto il presidente americano, e c'è la parte sentimentale, personale, l'emozione così di ritornare in un posto dove si è vissuto a lungo da bambino, dopo che la vita è completamente cambiata. Questi due aspetti, la parte politica e la parte personale, sono confluiti proprio in questo discorso che ha pronunciato oggi. I feel great affection for the people here. And obviously, you know, I have a sister who's half Indonesian. My mother lived and worked here for a long time. So the sights and the sounds and the memories all feel very familiar. It's wonderful to be able to come back as president and hopefully contribute to further understanding between the United States and Indonesia. Avete sentito le parole di Obama? Lasciate che cominci con una semplice dichiarazione, ha detto. L'Indonesia è parte di me. Sono venuto per la prima volta quando mia madre era sposato con un indonesiano che si chiamava Lolo Soetero. Da bambino venivo in un nuovo mondo, ma gli indonesiani mi hanno fatto sentire a casa. Applausi travolgenti. Ma non applausi, diciamo così, di circostanza, devo dire applausi davvero entusiasti, perché per gli indonesiani Barack Obama rappresenta così un ideale astratto, un fanciullo che è cresciuto nelle loro scuole elementari e che è diventato presidente degli Stati Uniti. Quindi c'è un misto di ammirazione ma anche di grande orgoglio. E per Obama il cuore del messaggio diventa pluribus unum, e cioè da molti uno, e lo stesso messaggio costituzionale dell'unità nazionale indonesiano, Bhinneka Tunggal Ika. Because it's almost on the exact opposite side of the world, not enough Americans know about this great country. And hopefully my visit here will help to promote additional interest and understanding. Obama qui continua, dice, ho siglato accordi economici con il vostro paese, ma è attraverso l'abbraccio dei valori fondamentali della democrazia che noi raccogliamo un'umanità condivisa, e la vostra nazione mostra che centinaia di milioni di persone con credo diversi possono essere uniti sotto un'unica bandiera. Insomma, in questo discorso, in questo viaggio, prima di andare al multilaterale della Corea, c'è una continuità con il discorso del Cairo, un messaggio così di fratellanza, che tutti possiamo convivere sotto lo stesso tetto, una speranza però che proprio dopo quel discorso del Cairo andò poi delusa nei fatti, come purtroppo spesso succede, come ha realizzato sulla sua pelle questo presidente molto idealista. Ecco, non per questo non vale la pena di ripetere questo esperimento. Con noi ai microfoni di America 24, Maurizio Molinari, inviato della Stampa. Maurizio, volevo così fare un piccolo bilancio di questa prima parte di viaggio asiatico, il sud-est asiatico, molto importante, ma colpito come oggi il presidente abbia lanciato un messaggio in conferenza stampa dicendo che l'Asia resta per lui ossessivamente lo svincolo per lo sviluppo, l'interlocutore privilegiato. Però qui mi ha colpito anche l'aspetto emotivo. Che impressione hai avuto? Io ne ho parlato un po' prima, ma cos'è Obama? Era emozionato, mi sembra, no? Quando parlava, era così, della sua Indonesia, della sua infanzia qua. Tenendo presente i viaggi che abbiamo fatto con lui in Europa e quella volta che siamo andati con lui in Africa, io ho avuto la sensazione che qui in Asia lui si sente più a casa. Cioè, lui ripete spesso democrazia, multiculturalismo, cioè questo è il suo mondo. Lui si sente un uomo del Pacifico, e quando viene qui in India o in Indonesia, che c'è questa moltitudine di religioni, razze incastrate, questo è il suo mondo. E quindi naturalmente parla dei suoi valori, le cose che gli interessano, le cose che gli stanno a cuore, e in più naturalmente poi c'è l'esigenza del leader politico, reduce da una sconfitta come sappiamo a midterm, ha bisogno di spazi per l'economia, punta a raddoppiare l'export e quindi guarda qui. Poi c'è il grande caso cinese, la grande partita strategica, però tu hai ragione nel dire che l'elemento personale e sentimentale io credo che in questo caso sia determinante come chiave di lettura della vera proiezione di politica estera del presidente, che è qui in Asia. Ecco, ultimo punto, avremo una tappa coreana, una tappa giapponese, ma avremo soprattutto un vertice con Hu Jintao ai margini del vertice coreano. Ecco, il rapporto con la Cina è difficile. Barack Obama ha dato un seggio alle Nazioni Unite, o meglio, ha promesso l'appoggio americano per il seggio alle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, all'India. Qualcuno dice che è per contenere la Cina, però Barack Obama l'anno scorso aveva sviluppato un rapporto forte con la Cina, si era parlato del bipolarismo, lui stesso aveva detto noi non dobbiamo, non vogliamo, non possiamo contenere la Cina non è un pericolo. Ecco, e quindi gioca un po' su due tavoli. Che cosa pensi che si diranno con Hu Jintao domani? Mario, noi eravamo assieme a Pechino quando ci fu la conferenza stampa con Hu Jintao, e assieme, mi ricordo, commentammo la straordinarietà di quel documento. Cioè, quel documento che uscì dal vertice di Pechino fu una cosa incredibile. Cioè, pagine e pagine di impegni, di proponimenti, di convergenze strategiche. Cioè, la Cina grande partner globale degli Stati Uniti. Obama aveva fatto quella scommessa. Il problema è che un anno dopo la scommessa non ha funzionato, non ha pagato, perché la Cina, soprattutto sul fronte dell'economia globale, dei grandi scambi, della quotazione dello yuan, tanto cruciale per l'economia americana, non ha fatto passi in avanti. La rivalutazione non è stata sufficiente per la Fed, non è stata sufficiente per Obama. Obama si sente, secondo me, tradito dalla mancanza di ottemperanza da parte cinese. Di nuovo, l'elemento personale: Obama viene da Chicago. Chicago la politica è molto dura, ma quando si fanno i patti si rispettano. E quello è un patto che, secondo me, lui dentro di sé sente che i cinesi non hanno rispettato. Da qui una strategia di tipo diverso. L'India, l'Indonesia, il vertice con Hu Jintao, il sostegno ai diritti umani in Cina. Cioè, sta aprendo un secondo fronte. L'intenzione di fondo resta, a mio avviso, quella di Pechino, cioè il grande patto con Hu Jintao. Però se Hu Jintao non fa passi avanti, a quel punto si tiene altre carte da giocare. E rientrano le carte che usava George W. Bush, il quale era molto più duro sia nei confronti di Pechino che di Mosca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico, dove siamo in viaggio al seguito del presidente Obama. Potrete continuare a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. I REM hanno preparato un nuovo disco. Ecco a voi Night Swimming, auspicio obamiano. In fondo nuotiamo fuori dalla notte. Every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Da Giacarta è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.